imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte prima, Baderek e la Sulam sulla via per la scala. Lezione numero 7. Le 13 qualità di misericordia. 1. El, nome del creatore a livello di Chesed. 2. Rakum, misericordioso. 3. Vehanun, e consolabile. 4. Erech, lungo. 5. Apaim, nella rabbia, lungo di rabbia, molto paziente per mostrare la sua rabbia. 6. Verav Chesed, e molta grazia. 7. Vehemet, e veritiero. 8. Nozer Chesed, che forma misericordia. 9. Lealafim, a migliaia. 10. Nose Avon, perdona, cura i peccati. 11. Vafesha, e atti criminali. 12. Vekata, e passa sopra. 13. Venake, e purifica. Nello Zohar abbiamo raggiunto le 13 qualità di misericordia. Rachamim, stiamo imparando Knesset Israel, Malkut, è circondato da sopra con questo, protetto da questo. Ieri sera e oggi è Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. In questo giorno queste 13 parole sono molto importanti. Sono pronunciate più volte in questo giorno, ma la maggior parte delle persone non capisce il significato di questo. Stasera pronunceremo queste parole una volta, poco prima della chiusura delle porte del cielo. Yud Gimel Medot Verachamim, 13 qualità di misericordia. Questo è il soggetto di cui parla l'inizio Zohar e con questo impariamo che la Knesset Israel, la Malkut, è circondata, da sopra, protetta e circondata. Secondo il calendario dell'universo, che è chiamato il calendario degli ebrei, questo è il tempo, ogni anno allo stesso momento c'è un momento favorevole dall'alto per l'uomo, per dare uno sforzo extra e con attenzione, attentamente essere consapevole dei suoi giorni e della sua vita, che diventa consapevole di non rovinare la sua vita invano. Nella prima o seconda lezione avevamo già parlato di queste 13 parole scritte nella Torah. Nel principio Elohim creò. Il nome Elohim è stato usato perché è come se fosse perfetto, solo in Katnut. Tra la prima e la seconda menzione del nome Elohim sono 13 parole. Queste parole corrispondono alle 13 parole, vedi l'inizio di questa lezione, date più tardi a Mosè quando chiese al Creatore di dirgli come lui amministrava l'universo. Voleva ardentemente sapere come questo stava funzionando, sapendo di fare e non per stimolare il suo intelletto. Sapere di servire, questo è il punto, e non sapere per te stesso, perché allora stai cercando la morte. Anche per Mosè è stato un problema, come lo è per ogni generazione e noi. Nel Talmud Berachot, benedizioni, possiamo leggere questo trattato in cui Mosè chiese al Creatore: per favore tu mi dirai. Non sempre diciamo tu al Creatore. Tutte le altre nazioni dicono voi al Creatore. In un certo senso questo dà una distanza perché per loro il Creatore è da qualche parte in cielo, ma per un ebreo lui è molto vicino. Un ebreo non può dire voi al Creatore. A uno sconosciuto tu dici voi. Se c'è una parentela tu puoi dire tu a qualcuno. Non stiamo parlando riguardo la sua religione. Lo dico ancora una volta. Non abbiamo nulla a che fare con la religione. È il creatore e io, tu e il creatore, e devo portarmi in armonia con le sue leggi. Le leggi sono come esse sono e non un pio desiderio o portarmi in accordo con qualunque religione esista. Ma se vuoi farlo, io non ti fermerò. Mosè era così sorpreso. Disse, Ribbono Shel Olam, maestro dell'universo, dimmi come tu controlli l'universo, perché non capisco. Era il più grande di sempre e non capiva. Come possiamo capire? Disse, a volte guardo a qualcuno che è giusto, un divino, una persona giusta che fa bene e vive secondo le leggi, e tuttavia egli è in difficoltà, soffre. E altri, che sembrano malfattori, hanno possedimenti terreni e una vita meravigliosa. Per questo, per lui, questo era molto strano, e voleva sapere quali erano le qualità dell'universo, e così il Creatore si sarebbe svelato egli stesso a lui. Il Creatore gli rispose, «Sono il misericordioso per chi voglio essere misericordioso, e sono grazioso per chi voglio essere grazioso. In altre parole, non è un tuo riguardo». Perché se ci fosse evidente un governo, saremmo come angeli, ed è solo l'intenzione di non comprendere, che portiamo sulla fede a credere che sia buono. Se dovessimo vedere qualcuno che è piacevole e buono per altri, vive secondo le leggi e riceverebbe direttamente una ricompensa, noi faremmo lo stesso. Ma non è nell'intenzione che vediamo la ragione e la causa. Perché non possiamo vedere qualcuno che è ai nostri occhi un malfattore possa avere una vita meravigliosa. Ci sono leggi, ma non possiamo vederle. Mosè insistette molto, voleva ardentemente sapere e poiché aveva il livello al quale il Creatore non poteva ignorarlo, lui doveva dirglielo. È lo stesso con noi, più fai, più ti porti in conformità con le leggi dell'universo, più puoi chiedere, chiedendo ovviamente in completa modestia e solo quando hai raggiunto il livello, un livello in cui hai guadagnato così com'era e non diversamente, perché se chiedi illegalmente sarà visto come il chiedere di un bambino. Lui esigeva dal Creatore e il Creatore gli aveva rivelato le 13 qualità di misericordia. Prima di pronunciare queste 13 parole, dici due volte il nome di 4 lettere del Creatore. Prima che i cancelli del cielo si chiudano, lo pronunceremo insieme senza alzarci in piedi. In una sinagoga si alzano tutti. Quando ti alzi significa che hai gadlut, completezza. Se un uomo si alza durante la preghiera, viene in una grande condizione riguardo alla preghiera, perché le preghiere sono fatte dal grande saggio in modo perfetto. Sedersi è una piccola condizione. Stasera le persone si inginocchiano nella sinagoga e ha a che fare con un certo livello di devozione durante la preghiera, per cui sacrifichi te stesso, per così dire. Senza sacrificare, senza pentimento, è assolutamente impossibile ottenere qualcosa nella vita. Il pentimento è per noi predestinato dal sistema operativo dell'universo. È importante che ti alzi interiormente per pronunciare le 13 qualità come lode per il re dell'universo. Tutte queste qualità che troverai ovunque nell'universo, e quella è la condizione in cui c'è Gadlut. Se l'uomo non lavora lui stesso giornalmente, perderà il contatto con l'Eterno, le leggi dell'universo, e allora sta chiedendo per la miseria. Queste 13 qualità di misericordia saranno pronunciate più volte nella sinagoga oggi e durante questo l'arca sarà aperta. Aperto significa che la forza superiore gira il suo volto a noi e in quel momento l'uomo deve usare questo momento per fare del suo meglio, per utilizzare questa opportunità. In un certo senso non è solo per il giorno, è per ogni giorno, non aspettare questo giorno. Questo è quello che è stato scritto, anche Elohim, eccetera. Nel testo è con le lettere in grassetto per mostrarci che proviene dallo Zohar e ora discuteremo di questo argomento. E ora sono uscite 13 parole. Queste 13 parole sono un prototipo di misericordia. Puoi leggere queste parole nelle prime frasi nella Torah stessa. C'è un principio. Ein Mukdam Uem Meukar Batora. Ein Mukdam Uem Meukar Batora. Non c'è prima o dopo nella Torah. Non esiste un ordine cronologico. Naturalmente è spirituale ogni cosa che è successo a Mosè e al suo popolo, eccetera. Puoi già vedere questo nelle radici dell'atto della creazione stessa. Ogni cosa è collegata con l'un l'altro. Nulla viene dal niente. Più tardi vedremo da Cain, ad esempio, da dove provengono tutti i peccati e quali sono questi peccati. E ovviamente possiamo vedere anche le cose buone. Zohar ci sta dicendo che tra il primo annuncio e il secondo annuncio della parola Elohim c'erano 13 parole e queste parole erano i punti di forza di Rachamim, misericordia, solo nel germe per uscire più tardi, per germogliare più tardi. In ogni generazione vediamo lo stesso meccanismo che funziona impeccabilmente solo in una forma diversa. Nell'atto di creazione possiamo vedere ogni cosa. Anche fino all'arrivo del Messia noi lo possiamo vedere nella Torah. Se hai familiarità con la storia dell'atto di creazione, tu sai cosa era, è e accadrà. Tutti i punti di forza ci sono già. Questo impara il nome Elohim nel poema qui. Nella Torah stessa sta citando qui. Nel principio Elohim creò. Vedi il nome Elohim e non Hashem perché dobbiamo sapere di quale forza trattiamo qui. Che il segreto è la Binah. Che il segreto è la Binah. Binah quindi è Elohim. Emana la Nukva di Zerampin. Abbiamo detto che ci sono 6 Sefirot di Zerampin e una di Malkut. Questo è ciò che è stato creato, i 7 giorni, che è lo stesso come le 7 Sefirot. Sono uscite 13 parole e queste sono. La parola ebraica Et è una voce passiva e scritta con la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. Et il cielo e Et la terra. E la terra era senza forma e vuota e l'oscurità sopra l'abisso e lo spirito. Dalla prima alla seconda volta che è detto Elohim ci sono 13 parole. Ogni cosa è nel germe nell'atto di creazione per essere rivelato più tardi. Queste 13 parole di misericordia non sono le parole di cielo e terra, spirito, eccetera, ma sono già le qualità. Più tardi nel tempo, ai livelli inferiori, arriveranno come espressione delle qualità. Loro stessi si manifestano a noi come qualità. Nelle prime frasi della Torah sono solo parole, nomi del Creatore e alle 13 parole di misericordia, esse sono le qualità del Creatore. Sono i nomi del Creatore. Non immaginarti un cielo o una terra perché non ha nulla a che fare con il materiale. Controlla costantemente che non fai immagini, altrimenti pensi che si tratti di cose che non erano destinate. I cabalisti parlano sempre dei punti di forza, e questo è possibile solo nella nostra lingua terrena. Il cielo, la terra era deserta, caos e vuota. Ma alle 13 parole di misericordia vediamo già la rivelazione del Creatore a Mosè, in tutte queste forze che sono le qualità del Creatore stesso. Nelle 13 parole che stiamo imparando ora, cielo e terra, eccetera, non si può vedere questo, è ancora nel germe. quindi al secondo Elohim. Per la seconda volta è stato menzionato il nome di Elohim, e lo spirito di Hashem, respiro, fluttuava sulle acque. Fin dall'inizio nella Torah vediamo queste 13 parole, 13 qualità di misericordia, e con questo l'intera creazione sarà circondata e protetta. Che queste 13 parole, a volte usa Milah e poi Teva per la parola parola, più avanti vedremo perché. Per dare un accenno, vedremo spesso questa parola, per dare un accenno, Romzim, alle 13 foglie del giglio sotto le spine nel segreto, il mare che sta sopra i 12 buoi come menzionato sopra. L'ultima volta che avevamo parlato di Salomone che aveva costruito il Tempio, questo era un riferimento, Remez, a livello spirituale. Vicino al complesso del Tempio avevano costruito un mare e sotto il mare erano i 12 pilastri, 12 buoi. C'è qualcosa di sacro il mare o ai buoi per niente. Era un riferimento sulla Nukva per cui una Sefirah era sopra le acque e 12 sotto. Ovviamente la gente andava lì per inchinarsi. I lavoratori comuni in ogni nazione pensano che quelle cose sono segrete. È sempre più facile inchinarsi per qualcosa che puoi vedere. È molto difficile da realizzare qualcosa che sia divino, che vive per sempre e non è fatto di mattoni o qualcos'altro, che è nel programma e vive per sempre. Molte persone che diversamente non vanno mai in una sinagoga ci vanno in questi giorni e si inchinano per l'arca e pensano che c'è qualcosa, ma non c'è niente di divino in esso. Le cose divine vivono per sempre, devi vederlo in questo modo. Naturalmente non c'è niente di sbagliato ad andare in sinagoga, ma quando ti inchini per la Torah e pensi di inchinarti per il Creatore l'Eterno, ciò non ha senso. Puoi trovare solo qualcosa di divino in una chiesa o nella sinagoga quando sei in armonia, in accordo con l'Eterno, leggi assolute dell'universo perché quello ti dà vita. Ci sta quindi dicendo che quelle 13 parole hanno un parallelo con il mare e i 12 buoi. Il mare è piuttosto galleggiante, illimitato, e i buoi stanno in piedi sotto la parsa, una linea che divide, in bria. Buoi significa pesante, fisico. Questa è la preparazione, è per rendere se stessi kosher, per prepararsi, per la condizione di Knesset Israel. Abbiamo detto che Knesset Israel, Malkut, è nella sua piena condizione. Il fatto che 12 sono ancora in bria e uno sopra significa che lei è ancora in una piccola condizione e quello è un periodo di preparazione. Che lei, Knesset Israel, raccolta di Israel, Malkut, nella sua piena gloria, dovrebbe ricevere perdono di misericordia, 13. Queste 13 parole, il cielo e la terra, eccetera, di cui abbiamo già parlato, questi sono gli indicatori che Knesset Israel, Malkut, dovrebbe ricevere in seguito tutte queste qualità di misericordia. Queste 13 parole scritte nella Torah, cielo, terra, spirito, eccetera, sono nomi del Creatore nel germe, ma quando sono stati elaborati e vengono nella Knesset Israel, hanno un'altra forma, la forma delle qualità. Non c'è differenza, tutte le leggi dell'universo sono semplici e geniali, tu devi correre per ogni cosa che è complesso. Nel nostro mondo a volte è una necessità, ma devi portarlo sempre in alto, così tu puoi vedere l'essenza. È sempre semplice, ogni cosa che è complesso è nell'essenza, nel semplice superiore. Complesso significa che ci sono antitesi. E quello è ciò che è stato detto, circondare la Knesset Israel e proteggerli. Qui vediamo che era già nell'atto della creazione. Da Rosh Hashanah, Capodanno, a oggi sono passati 10 giorni. 10 giorni significano un parzuf intero. E oggi è Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. E questo è un momento molto importante per pronunciare queste 13 qualità. Circa 4 minuti e le porte del cielo si chiuderanno. Naturalmente questo non è esattamente così che ogni cosa sarà chiusa. È sempre buono venire quando le porte si aprono o solo per l'orario di chiusura, ma non quando i cancelli sono chiusi. Appena prima che il negoziante chiude le porte puoi contrattare. All'inizio della giornata il negoziante pensa: lasciateli venire, io ho l'intero giorno. È lo stesso con il Creatore. Sebbene la sinagoga è piena di persone, il Creatore vede solo l'interno di una persona. Quando pronunciamo queste 13 parole, la devozione interiore è molto importante. Non fare la commedia. Prova a farlo con completa devozione. Non abbiamo idea di quanto il Creatore voglia chiuderci dentro e versare le sue 13 qualità di misericordia su di noi. Cerca di non dubitare. Prima di dire queste 13 parole, prima pronuncio il nome del Creatore 2 volte. Più tardi vedremo la struttura di ogni parola in ebraico, da dove viene la forza e dove le forze sono in armonia nell'uomo stesso. È anche il nostro lavoro, ma non pronunceremo i nomi scritti nella Torah. Abbiamo da fare con le Sefirot. Sapremo dove essi sono in noi stessi, quale luogo devi armonizzare in te stesso per portarti in accordo. El, per esempio, è in accordo con Kesed. Sefirah è emanazione, riflesso della luce e i nomi del Creatore. I cancelli del cielo sono ancora chiusi, ma possiamo ottenere un tale potere. Possiamo aprire prontamente i cancelli. Non siamo un collegamento passivo in una macchina. Se siamo in accordo con le forze superiori, noi possiamo chiedere. Un grande santo ha il potere di lasciare uscire da lui un'enorme forza attraverso la quale può pronunciare una preghiera, che attraverso la forza della preghiera può annullare tutti i regolamenti, la miseria, eccetera, che devono venire nel mondo, perché l'alta corte aveva già deciso, ha emesso la sentenza perché questo è inevitabile attraverso il comportamento dell'umanità. Un essere umano può sciogliere il verdetto dall'alto. Vedi cosa c'è in un essere umano? Quale potere può costruire l'uomo? Dobbiamo diventare come lui e non in modo ipocrita farci piccoli. Dipende solo da te e non da qualcosa o da qualcun altro o dalla religione o dai giorni di festa. Non succede nulla se vai solo alla sinagoga o in chiesa. Puoi pronunciare queste 13 qualità a casa, in una piccola stanza o ovunque tu sia. Devi essere sincero. Prima di pronunciare queste 13 qualità di misericordia, devi dire 2 volte il nome Adonai. È scritto il nome di 4 lettere, Avaya, ma invece diciamo questo nome, pronunciamo Adonai. Ma in una situazione comune non è ad alta voce pronunciare il nome Adonai, così non usi il nome del Creatore invano. Le 4 lettere del nome significano era, è e sarà. Nessuna forza impura succhia a questo nome. In Adonai è ogni cosa e come forze ti si svelerà. Anche se non capisci, pronuncia le parole senza dubbio, con piena devozione. Il dubbio è il problema di tutti. La differenza tra un santo e gli altri è che un santo ha più confidenza. Nessuno ha la confidenza di natura. Devi costruire, poi sperimenterai. Esperienza e non conoscenza. Dalla conoscenza non viene nessuna benedizione dall'alto. Puoi sapere qualsiasi cosa, il Talmud, le sacre scritture, puoi conoscerle a memoria e ancora nulla accadrà. È devozione. Attraverso la devozione ricevi qualsiasi cosa. Perché 13 qualità Midot? Midot significa qualità ma anche misurazione. Ogni cosa che puoi misurare è una qualità. Quando non è misurabile è luce. Di misericordia, Rachamim, viene dalla parola Rechem, utero. Anche noi siamo, per così dire, nel grembo. L'intero universo è una specie di placenta per noi. Ogni cosa è lì, tutti i punti di forza, l'acqua. Ogni cosa è anche in noi. Che sono mochin completi. Letteralmente mochin significa cervelli, luce nei chelim di Zeirampin e Malkut, tutti di Nukvah. Ci sta dicendo che le 13 qualità di misericordia sono luce, non parole ma luce. Luce perfetta della Nukvah, la Malkut di Azilut, da dove proviene tutto il bene per la creazione. Più tardi lo sperimenteremo, passo dopo passo, perché l'uomo è incorporato nella Nukvah, siamo una parte di questa. Ciò che accade nel superiore succede anche nelle anime dell'uomo, ricorda questo molto accuratamente. Non parliamo del nostro corpo fisico. Ossia, nessun soggetto dalla Kabbalah è proprio nessun soggetto della Torah. Il corpo muore. Questo è difficile perché la gente pensa che sia sacro. Il mio corpo non differisce da un corpo di un cane o di un altro animale, ma è preso dalla terra. Non c'è nulla di sacro nel nostro corpo. Ricorda questo. Nessun uomo ha mai avuto un corpo meraviglioso. Meraviglioso. I santi avevano interiormente un'enorme purificazione, ma la carne puzza proprio come gli altri esseri. Ovviamente devi prenderti cura del tuo corpo, non puoi dire «Ok, il mio corpo non è sacro, ora posso farci qualsiasi cosa con esso, ad esempio adulterio». Nel tuo corpo c'è la tua anima. Devi lavarti, prenderti cura di te stesso, ma da tutto questo non diventerai più sacro. Non diventerai più sacro. Né attraverso un bagno rituale, mikve, ti avvicini al Creatore se non sei dall'interno aperto e non ti arrendi. Ma se c'è una completa resa dall'interno, puoi lavarti anche in una palude e diventi bianco e splendente fuori dall'acqua. Naturalmente non posso dire questo, non è corretto, ma da una giusta intenzione e cedere il posto non ha importanza per venire più vicino al Creatore. Voglio che ognuno di voi vada avanti veloce, e ciò è solo possibile quando sono onesto e non risparmio i sentimenti. Se vuoi crescere, funziona nel modo in cui il Creatore vuole che noi funzioniamo e non secondo il tuo proprio desiderio. Una volta che mi trovavo in un posto nei Paesi Bassi e in una strada c'erano 5 o 6 chiese, e così c'era tanto odio lì. È lo stesso con la mia gente. C'è un odio terribile tra qualità diverse, liberali e ortodossi. Essi guardano ogni altro come un pezzo di sporcizia. E nei Paesi Bassi c'è meno differenza. Cattolico, protestante, si odiano a vicenda, non si salutano ad alta voce. E un matrimonio tra queste credenze è impensabile. Perfino 2 giovani innamorati, entrambi dalla Chiesa riformata, ma di un movimento diverso, non potevano sposarsi, come Romeo e Giulietta. Voglio che tu eviti un simile comportamento. Non ha nulla a che fare con il tipo di colore che siamo. Siamo tutti nella stessa barca, tutti lottiamo per lo stesso obiettivo. Ognuno si sforza per il suo proprio obiettivo, ma siamo collegati l'uno con l'altro. Capisci? Gradualmente devi accettarlo con il tuo cuore. Se sei un cattolico, prova ad accettare qualcuno che è riformato con il tuo cuore. perché con il tuo cuore sei più vicino insieme, siete entrambi cristiani, e gradualmente avrai la forza di accettare un'altra persona. E poi puoi accettare anche un ebreo. Naturalmente tutti voi sapete cosa sto cercando di dire. Perché è sempre un problema considerando gli ebrei? I problemi sono in te stesso, devi accettare l'ebreo in te stesso e non la cultura. Cristiani, arabi o qualunque altra religione o di nessuna religione puoi venire solo al Creatore se accetti il settore ebraico in te stesso. All'interno abbiamo tutti noi un ebreo, siamo collegati con l'altro. Solo un ebreo, il suo diritto di nascita è ebreo. Lui è sempre un ebreo e deve stare vicino al Creatore. L'ebreo porta tutti in sé. Il Creatore ha gli ebrei sparsi in tutte le nazioni in modo che possano prendere tutte le qualità dell'intera nazione e quindi possano tornare al terzo tempio, e quando c'è un servizio nel tempio tutte le nazioni saranno presenti negli ebrei. Come un ebreo tutti noi saremo presenti. Dire bugie è la cosa più terribile che puoi fare, ma è così profondo collocato in noi. Dobbiamo imparare a non farlo perché non sai cosa sia vero e questo è orribile. E poi non sai come devi costruire una relazione con il Creatore. Dobbiamo fare uno sforzo. Impareremo questo per diventare sempre più chiari. Chiaro, non complicato, perché la complicazione viene attraverso le bugie. Il Creatore ha fatto l'uomo per essere semplicità geniale. Semplicità è non deformare la verità. Nel nostro mondo vediamo persone che hanno una ricchezza enorme e che sono oneste, hanno fatto affari onesti. È nel loro carattere. E ci sono persone che hanno ricevuto la loro ricchezza in modo falso. Non diventeranno felici e non si avvicineranno alla realizzazione. È lo stesso per tutte le altre cose. Ed è considerato che essi, le 13 qualità di misericordia, la circondano e brilla dentro da tutti i lati intorno. Perché Nukva è nella piena condizione ed è considerato che essi la circondano. E lei è protetta da loro, quelle 13 qualità di misericordia, dal tocco di esterni. Esterni sono la nostra propria imperfezione. Le forze impure che sono in noi succhiano e sembra come un attacco dall'esterno. Pertanto un uomo meno educato ha più odio per le altre persone. È così pieno di forze impure ed essi lo rosicchiano e lui sente questo e lo proietta al mondo esterno. Poi veniamo in adempimento, viviamo secondo le leggi dell'universo e non otteniamo attacchi dalle clipot di succhiare le forze impure. Ovunque c'è una carenza nei nostri campi di osservazione, abbiamo un sentimento che ci sia qualcosa che ci succhia, sentiamo il vuoto. Passo dopo passo impareremo cos'è il succhiare delle forze impure. È un sentimento di dispersione, una perdita in te. Una donna forse può capirlo meglio. Ogni mese ha le mestruazioni. Nello spirituale c'è anche una perdita, nell'uomo e nella donna. Dipende dal tuo sviluppo. Il tuo sviluppo non significa leggere molti libri, ma ha a che fare con la tua buona volontà di lavorare su te stesso. Attraverso questo lavori alla tua realizzazione e all'atto di creazione. Ci sta dicendo dal tocco di esterni, la Nukva, l'ultima forza di Azilut, portandosi nella perfezione, per essere in grado di vedere tutte le luci, e lei è circondata da questi punti di forza, queste 13 qualità di misericordia che ognuno di noi può sentire. In ogni situazione puoi sentire se in quel momento sei circondato dalla misericordia del Creatore. In tale momento sul tuo livello vedi chiaro faccia a faccia al Creatore, ma sul tuo livello e non al livello che Mosè poteva vedere. Perché non possiamo vedere lui? Le forze impure ci stanno ancora succhiando. Il Creatore ha creato anche queste forze impure per lasciarci crescere, per lasciarci arrivare all'età adulta. Deve esserci un sentimento irritante e quell'irritazione fa che io diventi consapevole che c'è una mancanza in me e poi inizio a lavorare su me stesso. Quando vai da un dottore? Quando hai un dolore e non quando sei sano. Spesso le persone vanno in ritardo dal medico. Circondato da 13 qualità ti dà il sentimento di protezione, perché abbiamo paura. Siamo attratti dalla forza impura e dai pensieri adulteri. Dobbiamo imparare a rimuovere questi pensieri adulteri fin dall'inizio, quando sono nel germe e non aspettare che essi divengano come un gonfiore maligno. Attraverso l'apprendimento della Kabbalah diventi attento e reagirai a tempo. Siamo un prodotto di questa Nukva, questa Malkut dell'Azilut, da dove proviene tutto il bene per il nostro mondo. E ora vediamo che lei è protetta contro il succhiare gli estranei. Questi estranei sono per lei sempre estranei, punti di forza esterni, e lei e anche noi li sperimentiamo come una condizione di Katnut, quando non abbiamo 10 Sfirot. Perché fin tanto che lei non ha la grande luce, Mokin, luce di Zerampin e Malkut, queste 7 Sfirot sono chiamati Mokin, come uno splendente di Kokma. La Malkut di Nukva deve sempre avere un piccolo Kokma, saggezza. Le altre 9 Sfirot non ne hanno bisogno. Queste sono le qualità del Creatore e hanno abbastanza di Hassadim, misericordia. Solo Malkut ha bisogno della grande condizione perché è la più bassa di ogni cosa. Lei è la creazione, la più grezza di tutti. E più è grezza, più Kokma è necessario. Kokma può penetrare in certe condizioni grezze. Guarda per esempio a 2 persone. Uno di loro ha un piccolo ego, egoismo, e l'altro ha un grande ego. È più facile correggere il piccolo ego, ha piccoli bisogni. L'altra persona, che vuole il mondo intero, ha più problemi a correggersi. Supponiamo che entrambi hanno corretto se stessi. Quello con l'ego più grande è maggiore, è una benedizione per se stesso, per il Creatore e per il mondo intero. Ma se non sono corretti, quello con il piccolo ego è migliore, è meno pericoloso per la società. Maggiore è l'ego di una persona, più lo vogliamo qui, allo studio della Kabbalah. Ma quello con l'ego più piccolo può correggersi prima e può essere d'aiuto, può aiutare un malfattore. Cosa significa malfattore? Che è lontano dalla sua correzione. Domanda di un partecipante al corso. La dimensione dell'ego dice qualcosa della qualità dell'anima? Risposta. Non sappiamo in quali condizioni l'anima è. Nessuno può vedere questo. Mosè non poteva vedere questo e si dice che poteva parlare con il Creatore faccia a faccia. Non ha dovuto fare tanti sforzi come gli altri devono fare. Impareremo come possiamo entrare in contatto con il Creatore. Sarebbe facile come comporre un numero di telefono. Ogni cosa dipende da te. Se i tuoi pensieri erano all'esterno e poi vai e impari lo Zohar sul tuo livello, puoi vedere il Creatore diritto di fronte a te. Sperimentando l'interno, vedi la realtà chiara e ciò che era poco prima sembra non essere collegato con quello che sperimenti ora. Nulla salirà se non evochiamo. Tutte le normative e ciò che è secondo l'astrologia, destino, saranno distrutti dall'apprendimento della Kabbalah. L'astrologia non può raggiungere l'anima di una persona. Quando l'uomo vive come un animale o come un animale sociale, sia in politica o professore o vincitore di un premio Nobel, lo zodiaco ha influenza su di lui e la forza dei corpi celesti lo influenza. Quello che stiamo imparando raggiunge molto più in alto, arriviamo oltre i corpi celesti e non hanno il potere di trattenerci. Ciò che stiamo imparando sta nella nostra anima per sempre, che è il perché ti dico di non ricordare, non aggrapparti a quello che stai imparando. È venuto in te e allo stesso tempo non viene da te. Quando hai bisogno verrà di nuovo e puoi darlo via. Tutta la conoscenza del nostro mondo, la religione e la filosofia appartengono tutte alla struttura terrena. Naturalmente ti è di aiuto in questo mondo, ma solo in questo mondo. Quando muori va insieme a te nella tomba. Quello che stiamo imparando non è fatto dall'uomo. Ecco perché non devi ricordare. Attraverso sempre più ricordi non puoi avvicinarti al Creatore. Ciò è assolutamente impossibile. Tutto questo apprendimento, Talmud e così altro, solo per sapere, per il ricordare, non porta l'uomo più vicino al Creatore, non ti porta alla libertà. Solo pochi di un'intera generazione possono apprendere dal Talmud e tutti gli altri ebrei la scienza è anche data dall'alto, può venire alla luce. Ma la maggior parte di loro sono seduti lì e indossano abiti consumati attraverso l'apprendimento di tutto il ragionare secco e non si avvicinano al Creatore. Ovviamente è sempre meglio di fare cattivi affari. Perché tutto il tempo che non ci sono mochin di Gadlut nella Nukva? Perché solo Malkut ha bisogno di mochin di Gadlut, Kochma, saggezza? Quello è il perché le religioni non hanno bisogno di saggezza, dicono solo di essere misericordioso. Ciò è un bene per gli angeli, non per gli esseri umani. L'uomo viene da Nukva e Nukva non può venire a perfezione per tutte queste 13 qualità di misericordia che la circondano e che lì non c'è il succhiare da forze impure, senza una piccola saggezza, senza uno splendore di Kochma. Impareremo come questo meccanismo funziona. È lo stesso con noi. Kochma viene dal lato sinistro. Destro e sinistro sono in una combinazione e da quello viene a calcolare una media dove è la misericordia e nel suo interno vi è un piccolo Kochma. Kochma è la forza del lato di creazione e deve essere dentro noi sempre. Ci sono 7 giorni della settimana e Shabbat è Malkut. Su ogni Shabbat un ebreo deve portarsi in connessione con le forze primordiali. Le forze primordiali della creazione. In questa connessione sono tutti i punti di forza dei 7 giorni delle forze primordiali. In queste ci sono tutte le risposte che possono essere di aiuto per l'umanità. Fino alla fine della correzione essi sperimentano un po' di luce ogni settimana. Tutti noi dobbiamo portare noi stessi queste forze creatrici e portarle alla luce. Qual è la conseguenza? Quando acquisti una nuova batteria e la inserisci nel tuo mini disco, azioni un po' e poi carica la batteria, azioni un po' e fai girare il motore in modo da non lasciare la batteria completamente scarica. In tal caso non funziona dopo breve tempo perché non aveva la propria capacità. È lo stesso con l'uomo nel nostro mondo. A tutti quei modelli di cultura, tradizioni, eccetera, fa che usiamo solo il 2% dei nostri punti di forza creativi. Einstein aveva detto: l'uomo usa la sua capacità solo per il 2%. Non era un cabalista, anche se riusciva a vedere questo, meraviglioso. Era un uomo del nostro mondo e attraverso la fisica poteva vederlo. dopo 2000 anni di religione, modelli di cultura, ed erano essi necessari per trasformare l'essere umano in un animale addomesticato, c'è ovviamente una progressione. Ma se guardi un leone che è libero e vive nella natura, è bellissimo. E se si guarda un leone nello zoo, lui è un bravo ragazzo. Lo vedi camminare nello zoo, ma ti manca qualcosa. Ogni giorno è nutrito, non deve cacciare, non usa i suoi punti di forza creativi. Lo stesso con noi, anche noi non usiamo i nostri punti di forza creativi ogni giorno. Al mattino ti alzi, prendi il caffè e guidi verso il tuo lavoro. Ogni cosa è organizzata. E dove sono i tuoi punti di forza di creazione? Conosci qualcosa dei tuoi punti di forza creativi? Piuttosto no. Per favore lasciami in pace. Viviamo solo con un massimo del 2% dato a noi. Ovviamente abbiamo l'appoggio perché sappiamo come comportarci nella società, ma attraverso questo ci neghiamo altre cose. Non puoi vedere la salvezza se usi solo un po' del 100%. L'altro 98% non è in uso. La menzogna dorme in noi. E poi siamo stupiti del perché abbiamo così tanti problemi. Non usi i tuoi punti di forza creativi e poi ci saranno malattie. Se guardi alla miseria delle altre persone e hai compassione di loro per lavorare sul serio a te stesso, pensi di essere una brava persona perché hai compassione. Ma non è buono. Se non lavori a te stesso è una commedia. Ed è quello che sta facendo il mondo intero. Guardano alla sofferenza degli altri perché attraverso quello ti senti bene. È un inganno. Cerca di lavorare a te stesso e non scappare. L'uomo piuttosto dà soldi ai poveri e questo è un tipo di fuga dal lavorare a se stessi. Molti di noi fuggono via dal fare buone azioni e ovviamente devi fare questo, ma non è tutto. Facendo solo questo non ti avvicini al Creatore. Ricorda questo. Ogni giorno devi versare i tuoi punti di forza creativi. In ogni situazione, in ogni cosa che fai, anche nella più piccola cosa, devi farlo con la completa attenzione, con tutti i tuoi punti di forza. Quando siamo al lavoro usiamo molti dei nostri punti di forza, ma quando siamo a casa lo facciamo molto di meno. E poi sei come la batteria, la tua capacità diminuisce fino al momento in cui tutta la vita è fuori di te. Ci sono persone che hanno solo 30 anni e non hanno più la capacità perché non usano tutti i loro punti di forza. Da dove viene tutto il cancro? È dall'uomo stesso perché non usa i suoi punti di forza creativi. Il cancro significa che tutte le cellule iniziano a vivere per se stessi perché non arriva Kokhma. Solo Kokhma ha il potere di distruggere questo intero gonfiore spirituale come altri. È tutta la conseguenza di una mancanza dello spirituale. Cosa c'è scritto di Mosè prima della sua morte? E Mosè morì. Aveva 120 anni e nessuno sa dove sia sepolto, altrimenti la gente farebbe pellegrinaggi ed essi avrebbero creduto in Mosè invece che nel Creatore. I suoi occhi non erano disturbati, i suoi occhi erano luminosi come se avesse 20 anni. E questo è possibile per chiunque di noi che continua con lo Zohar. Attraverso il nostro apprendimento svegliamo l'altro 98% dei nostri punti di forza creativi. Lasciamo che vengano alla vita. Ora le rimanenti percentuali sono latentemente presenti, morte. Quando usiamo questi 98%, li tiriamo su alla luce, la luce alta penetrerà loro con uno splendore di Kokhma. Uno splendore di Kokhma perché è basso. Uno superiore come Ari Kampin ha bisogno dell'intero Kokhma. L'inferiore meno Kokhma è necessario, solo Malkut ha bisogno di Kokhma. Nessuno del sistema operativo ha bisogno di Kokhma. Essi hanno già molto kokma e non ne hanno bisogno per se stessi. Ricorda questo, tutte le nove sfirot, tutte le forze nell'universo servono l'uomo e l'uomo serve il creatore. Non dobbiamo sapere cosa l'oroscopo ci sta dicendo, perché se lo facciamo dimostriamo che i corpi celesti sono più importanti per noi e non è stato creato in questo modo. Il corpo celeste ci serve. L'uomo è il più alto, l'unica creatura che può raggiungere la perfezione assoluta e può avere le stesse forze come il creatore. Naturalmente deve avere modestia nei confronti del creatore, ma d'altra parte lui vuole che diventiamo come lui. Ciò significa che possiamo avere le stesse qualità come le ha lui. Dalle 13 qualità. Vedi l'inizio di questa lezione. Abbiamo detto a lungo come la Nukva non diventa luce di Gadlut, di perfezione, quindi non nella situazione di sperimentare. C'è in lei il succhiare di estranei. Finché lei non è nella perfezione, c'è il succhiare di estranei. Ci sta dicendo in quali condizioni Malkut può essere trovata. Più avanti arriveremo, passo dopo passo, al meccanismo come la Nukva viene alla perfezione e poi possiamo realizzarlo in noi stessi. Impareremo passo dopo passo e lentamente diventerà tuo. Qualunque cosa tu faccia nel tuo lavoro o quando si riceve un cattivo messaggio di avere esperienze negative, non li vedrete più come negativi. La tua anima può vedere la perfezione in esso, più tu correggi te stesso. Tutta la miseria è in te. La miseria non deve essere corretta. Quella ti dà il sentimento di infelicità o che altre persone rendono la tua vita un inferno. In quel momento hai il succhio delle forze impure. Cosa devi fare in quel momento? Proietti la miseria sugli altri, incolpi loro. Devi crescere e sapere nel bene e nel male qual è il tuo problema. Se ti irriti, allora hai attraversato un confine e poi devi andare al tuo interno, entrare in contatto con l'interno e sei pronto in un secondo. Ti chiederai, qual è stata l'infelicità che ho avuto poco prima, il sentimento, se avessi attraversato un confine? Era solo perché un frammento di te era succhiato da altre forze e la ragione era il tuo stato imperfetto che ti dava il sentimento che altri ti attaccassero. Se continui a cercare di contenere i punti di forza in te, poi sentirai che erano proprio i tuoi punti di forza creativi. Tu e non la società, vuoi fare qualcosa per la società, è una bugia, una menzogna assoluta. Guarda i politici, non dico che mentono, ma collegano le loro aspirazioni solo con la società. E questo non è sbagliato, ma se lo fai devi rivivere la tua vita su questa terra e su tutte le tue correzioni personali, non nella società, non nella storia era e sarà qualcosa di sbagliato. Devi avere forza e chiedere quella forza per portare questo. Sappi che tutti i problemi sono in te, assolutamente. Quando inizi a lavorare su te stesso, sarai liberato da tutti i problemi di questa vita. I problemi sono il succhiare dei clipot, le forze impure. Non importa cosa succede al di fuori di te. È tutto in te. Ecco un enorme segreto. Lavora su te stesso, avrai una progressione enorme. Quello che stiamo facendo nelle lezioni in così poco tempo e quando si lavora se stessi. Altri non possono farlo in un lungo periodo di tempo. Lavora su te stesso. Naturalmente bisogna guadagnarsi da vivere, avere obblighi sociali, eccetera, e si può e si deve fare, ma mentre si sta facendo questo, presta attenzione che non si passa mai il confine. Ogni cosa deve stare ed essere nella tua propria forza. Se non riceverai un sentimento, proprio come dice Sulam, fin tanto che la Malkut ha una carenza di quelle 13 qualità, non ha piena luce in te, poi ti senti tradito, attaccato da altri o hai paura, eccetera. Ogni cosa dipende da noi. Siamo capaci di avere una perfetta relazione con il Creatore e dipende dai nostri sforzi, dai nostri desideri, può diventare realtà in breve tempo. Naturalmente nuovi e più elevati gradi spirituali saranno sperimentati, ma se si riceve la perfezione, l'armonia al grado di dove sei, potrai sperimentare Ein Sof. Anche al grado più basso puoi sperimentare queste 13 qualità, puoi essere in armonia. Poi vai oltre, ma ora hai l'esperienza di cosa è la perfezione e l'armonia. Cosa succederà allora? Otterrai un nuovo lavoro, un nuovo pezzo del tuo ego e di nuovo dovrai costruire i tuoi punti di forza in te stesso per fare una correzione anche a quel livello. Vieni a un grado più alto dove forse solo una sfera è corretta e 9 sono sotto, proprio come con la Nukva alla creazione del mondo, con una sfera nell'Azilut e 9 nella Bria. Circa un centesimo di lei ha luce, perché il Keter della Nukva neanche 10 in sé. E poi devi ricostruire di nuovo, per così dire, trarre in alto i 9 buoi, così possono entrare nel mare e fare un grande mare. Tu ottieni la luce perfetta del grado a cui stai lavorando e tu vai sempre di più avanti a forme sempre più elevate di perfezione. E non chiedere quando devi fermarti. Quella è una domanda del nostro mondo. Dall'interno otterrai il sentimento quando tu sei pronto, ma non pensare che puoi divertirti quando sei pronto. Pensa che puoi rilassarti. Gli uomini più saggi sulla terra chiesero più lavoro quando erano pronti, perché si sentivano miserevoli, non avevano niente da fare sulla terra. Quindi non chiedere cosa succederà dopo, perché non te lo spiegheremo. Perché no? Quindi hai una relazione con il Creatore, faccia a faccia, e nessuno può dire nulla a riguardo. Stiamo imparando tutti i tipi di procedure, tutti i tipi di qualità del Creatore, ma la tua relazione con il Creatore la devi costruire da te stesso. Non ti dico di seguirmi perché ognuno ha la sua propria relazione con il Creatore. Questa è unica nel mondo. Stiamo seguendo lo Zohar e non le caratteristiche comuni di un leader terreno. Quando segui le caratteristiche di un leader terreno, riceverai ovviamente le sue caratteristiche comuni. Io non ti mostro il mio lavoro, non puoi imparare dal mio lavoro, dalla mia esperienza. Capisci? Ti do solo una parte dello Zohar che si sta utilizzando per tutti. Devi sentire e sperimentare da te stesso. Io do dalla parte che sperimento e dall'altro lato, la parte che ha bisogno di correzione, la do al Creatore. Il lato che ha bisogno di correzione devi darlo solo al Creatore. Non parlare mai del tuo lavoro spirituale con nessuno. Né con il tuo partner, deve sapere cosa sta succedendo in te, devi provare al tuo livello di parlare con il Creatore faccia a faccia. Questa è una contraddizione per il nostro mondo. Nel nostro mondo le persone vogliono che tu ti rilassi. Non vogliamo rilassarci ma andare avanti. Anche se mi fa male andare avanti, so che poi devo passare attraverso strati interni che sono stati in un primo momento come la morte per me. Quando inizi a correggere te stesso, devi camminare attraverso tutti i peccati. Non puoi evitare, c'è un solo modo. Hai peccato, il tuo interno è pieno di polvere e ora vuoi iniziare con una vita buona. Devi andare allo stesso canale. All'inizio lo avevi sporcato e ora devi passare attraverso la tua propria sporcizia. Com'è possibile ciò senza dolore? Se c'è un blocco e non si conosce, si deve passare attraverso questo blocco. Mai prima avevi sperimentato questo blocco e fino ad ora hai sempre detto: ecco il mio limite, non vado oltre. Perché no? Il 2% è la mia cultura, la mia tradizione, la mia forza. E nello spirituale devi usare tutte le forze che sono in te, perché se non lo fai, tutti questi luoghi all'interno dove hai peccato ti danno il sentimento di dolore. Devi attraversarlo. Non è vero dolore, nessun dolore fisico, non devi andare da un dottore. In quel momento, quando inizi a lavorare su te stesso e non da uno strizzacervelli o dai vicini di casa per schiarirti il cuore, ma lavori su te stesso e chiedi all'elevato dottore, l'unico medico, chiedi a lui e digli che sei misero e non sai come aumentare la forza per purificarti. Lui ti aiuterà se sei sincero, no se tu interpreti una commedia. Oggi è Yom Kippur, giorno dell'espiazione, e anche oggi ogni cosa dipende dal tuo atteggiamento interiore. Puoi andare in sinagoga e dire le tue preghiere, ma andrai avanti solo con fiducia e devozione. Ricorda questo. Altrimenti ti aiuta solo psicologicamente e non ti avvicini al Creatore. Lo abbiamo già detto, sembra una ripetizione, ma ogni volta è nuovo perché ogni volta è su un nuovo livello. Siamo qui non per l'apprendimento ma per l'effetto, quello ci aiuta. Ecco perché dobbiamo ripetere. Tutte queste ripetizioni non sono da me, vengono dall'alto.